Avremo tra poco, ci raggiungerà in studio il dottor Franco Vasta, sindaco di Campofelice di Roccella, e ci raggiungerà anche l'avvocato Vito Patanella, assessore al turismo del comune di Cefalù, mentre abbiamo già in studio, e per questo lo ringraziamo, il dottor Carlo Livecchi, giudice di pace, in quanto parleremo anche del problema dell'ufficio del giudice di pace che in programma potrebbe anche allontanarsi da Cefalù. E vorrei iniziare con Carlo Livecchi. Grazie intanto Carlo. Dacci qualche idea. Sì. Cefalù è un po' in smobilitazione. Sì, se ti puoi avvicinare al microfono ancora meglio. È un po' in smobilitazione in molti settori. Uno di questi è il settore del giudice di pace, e quello del tribunale. Intanto saluto il sindaco di Campofelice di Roccella, il dottor Franco Vasta, che in questo momento è venuto in studio. Carlo, stavamo dicendo, ci sono dei problemi grossi a Cefalù anche per quanto riguarda l'ufficio del giudice di pace. Sì. Che facciamo? Stiamo perdendo tutto. Che succede? Io appunto voglio riferirmi allo schema del decreto legislativo, che ancora è allo stato di schema, non è stato ancora pubblicato e approvato, quindi potrebbero esserci delle novità all'ultimo momento. Quello che prevede lo schema del decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni giudiziarie è la soppressione degli uffici del giudice di pace di questo circondario, attribuendo le competenze territoriali degli uffici soppressi a quello di Termini Imerese, ove, come sappiamo, ha sede il tribunale. Però c'è una possibilità, perché l'articolo 3, secondo comma, di questo schema prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli uffici soppressi, gli enti locali interessati, e quindi qua la presenza di rappresentanti degli enti locali. Consentimi di salutare anche l'avvocato Vito Patanella, assessore al turismo del comune di Cefalù, che prego di prendere posto alla sinistra, così come il sindaco di Campofelice di Roccella, Franco Vasta. Lo prego di prendere posto anche qui per intervenire quando lo ritengono opportuno, anche su questi temi che sta trattando il dottor Carlo Livecchi. Quindi stavo dicendo che l'articolo 3, secondo comma, di questo schema prevede che entro 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi degli uffici soppressi, gli enti locali interessati, e qua stavo dicendo la presenza di rappresentanti degli enti comunali è significativa, quindi i comuni, gli enti locali interessati, anche consorziati fra di loro, questo è importante, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi. Quindi in questo caso potrebbero intervenire anche i comuni interessati, e perciò di questo passeremo poi la palla all'avvocato Vito Patanella. Volevo dire che l'ufficio del giudice di pace di Cefalù ha una competenza sui territori dei comuni di Castelbuono, Pollina, San Mauro Castelverde, Isnello, Collesano, Campofelice di Roccella, Scillato, Lascari e Gratteri. Sono ben 10 comuni fanno capo alla sede del giudice di pace di Cefalù. La soppressione di tutte le sedi comporterebbe anche la soppressione degli uffici di Gangi e Polizia Generosa, che evidentemente non hanno interesse ad essere accorpati a Cefalù, perché loro mirano a proteggere il loro territorio, per cui, anzi, qualche giorno fa su un giornale di Sicilia c'era un articolo per cui il sindaco di Polizia si sta attivando perché venga quantomeno mantenuta la sede di Polizia, accorpando quella dell'ufficio del giudice di pace di Gangi. Quindi, non potendo prevedere un accorpamento con altri uffici del giudice di pace, perché sono molto distanti dalla sede di Cefalù, l'unica soluzione potrebbe essere quella che gli enti interessati si consorziano fra di loro e, con il comune di Cefalù, richiedono al Ministro della Giustizia che venga mantenuto l'ufficio del giudice di pace di Cefalù. Certamente in questo caso dovranno farsi carico delle spese di funzionamento dell'ufficio, però in questo caso le spese di mantenimento dell'ufficio potrebbero essere ripartite fra tutti i comuni, fra tutti gli enti che hanno interesse a che venga mantenuto l'ufficio del giudice di pace. Ma gli uffici non potrebbero spostarsi dove attualmente c'è il tribunale? Ecco, e ora arriveremo anche a questo. Quindi una ripartizione che quindi potrebbe... Quindi evitare le spese. Esatto. Sì, sì. Prego, no, avvocato Patanella. Cioè, tanto saluto i radioascoltatori, ti chiedo scusa se ti interrompo. No, cioè, manca però sul punto è bene, prima di andare avanti, chiarire un fatto. Questa norma è l'ennesima norma fatta da uno Stato che ragiona con il senso dell'amministrazione pro domo sua. Che intendo dire? Quando c'è una controversia tra il cittadino e lo Stato, decide il TAR, il Tribunale Amministrativo. Cos'è il TAR? Un tribunale evidentemente che lo Stato nomina, che i giudici nominati nel Tribunale Amministrativo, come in tutti i tribunali amministrativi, sono giudici attraverso un concorso statale per dirimere quelle controversie. Ma lì c'è un organo superiore, che è il Consiglio Superiore della Magistratura, che garantisce l'autonomia di questi soggetti. Invece noi andiamo al giudice di pace. Qua si sta dicendo, con la stessa metodologia con la quale si affida ai tribunali amministrativi di dirimere queste controversie tra Stato e cittadino, fate nei singoli comuni, dimenticando però che se un consorzio di comuni si fa carico dell'ufficio di giudice pace, delle spese, delle competenze, di tutto quello che significa il funzionamento di questo giudice, e siccome i giudici di pace, non ce lo nascondiamo, sono chiamati a dirimere soprattutto quelle controversie che riguardano di poco valore, certo. Ma che sono sempre nella stragrande maggior parte, e questo te lo dico come assessore al contenzioso del comune di Cefalù, dati da multe, da piccoli sì. contenziosi sempre contro il comune, ci troveremmo ad avere un giudice che, siccome non è legato da questo punto, un ufficio, attenzione, non il giudice, ma un ufficio che, siccome non è legato da nessun vincolo col Consiglio Superiore della Magistratura, di fatto ad avere una soggezione psicologica nei confronti del suo lavoro. Allora noi vogliamo una giustizia sganciata dalla politica, sganciata dai ragionamenti squisitamente di sudditanza, oppure la vogliamo asservita definitivamente alle logiche politiche e comunali? Allora, siccome io personalmente, come avvocato, ritengo che questa sia una norma totalmente distorta rispetto a quella che è la Carta Costituzionale, cioè dell'autonomia della giustizia, ritengo che anche questa opportunità finta, perché poi dovremmo entrare anche nel merito delle risorse economiche che i comuni hanno per sostenere questi costi, risorse che lo Stato non ci trasferisce, e quindi ce la cantiamo e ce la suoniamo sempre con quello che abbiamo in casa, anche a voler concedere comunque quelle risorse economiche comporterebbe sempre una diminuzione del livello di fiducia tra il cittadino e chi lo amministra, tra il cittadino e chi in questo caso amministra un bene supremo, che è quello della giustizia. Vogliamo questo? Io sono contrario. Allora chiedere di fare un consorzio di comuni per tenere i giudici di pace, secondo me, è un prendere in giro i cittadini e dire ai cittadini: da oggi la giustizia dei giudici di pace, la giustizia delle realtà territoriali non esiste più. Vogliamo questo? Per carità, accomodatevi. Da questo punto di vista lo dico ai tanti sindaci, qua c'è il sindaco Vasta che lo sa. Ecco, ora facciamo il parere intervenire il sindaco Vasta su questo. Che credo questo che dal problema. Punto di vista della tutela del territorio sarebbero evidentemente portati a una soluzione del genere, ma poi dobbiamo ragionare con, ecco, questo grado di fiducia tra il cittadino e la politica. Oggi leggevo l'ultimo sondaggio Sole 24 Ore, è pari al 9%. Cioè la politica oggi è affidabile per il cittadino fino al 9%, una percentuale credo storicamente è più bassa di così, non ci sia mai stata. Questa norma ne abbassa ulteriormente quel grado e lo abbassa soprattutto nei confronti della giustizia. Sì, su questo siamo veramente d'accordo. Grazie. Saluto i radioascoltatori. Cioè dottore Livecchi. Allora scusa un attimo, allora sì. Dovremmo dire abbandoniamo la giustizia nei piccoli comprensori e facciamo una sede unica che è quella del Tribunale di Termini e basta. No, non sono d'accordo. No, dobbiamo dire manteniamo quello che allora sì, sovraccarichiamo il Tribunale di cose che vengono risolte ordinariamente dai giudici di pace e che prima venivano risolte molto dalle preture soprattutto. Venivano risolte dalle preture mandamentali prima e poi dalle sezioni staccate di pretura di polizia e Cefalù, e oggi che si sta centrando tutto presso il Tribunale di Termini, perché la sezione staccata del Tribunale di Cefalù, secondo lo schema previsto da questo governo, prevede che in tempi e non più lontani come una volta, perché si parla da decenni e decenni di sopprimere le sedi distaccate. Ora il governo tecnico non ha più timore, è giusto, della politica, e andrà avanti, e subito dopo la soppressione degli uffici del giudice di pace passeranno alla soppressione delle sezioni staccate, e in più passeranno a sopprimere le sedi dei tribunali, che oggi sono tribunali tipo Pistretta, qualche altro tribunale, e Cefalù pure. Per cui andremo tutti o a Termini Imerese o a Palermo. Questa è la soluzione. Prego Franco, basta. Io ringrazio Cefalù Radio Madonie, saluto gli ascoltatori, gli ospiti qui presenti, Mario Lombardo. Mi date l'opportunità ogni tanto di interloquire con il popolo delle Madonie. Io su questo tema ho partecipato, dottore, a una riunione indetta dagli avvocati, che si è tenuta nella sala delle Capriate, dove erano presenti i sindaci di Collesano, c'era Campofelice, Collesano, non ricordo se c'era Gratteri, l'avvocato Muffoletto, eccetera. Io non entrerei nel merito, perché non mi compete, qua ci sono operatori del diritto più bravi e più competenti di me, però voglio dire, questa politica e questo livello di cui parlava Vito Patanella, l'amico Vito, si abbasserà ancora ulteriormente questo indice di gradimento, che è giunto ai minimi storici, si abbasserà ancora di più, perché la sfiducia, io la tocco, io vivo con la gente giorno per giorno, ormai 6 anni che faccio il sindaco, voglio dire. E quindi tocchi con mano. Tocco con mano che c'è una sfiducia nei confronti della politica, ma se si continua, per esempio, a mantenere un sistema elettorale che ha allontanato la gente dalla politica, un sistema elettorale fatto per 4 boss che si riuniscono nelle sedi di partito e decidono chi deve rappresentare i territori e le comunità, i cittadini andranno sempre più meno alle urne, e voi vedrete che ci sarà una percentuale di astensionismo molto, ma molto alta, la percentuale di astensionismo, e allontana i cittadini dalla politica, i giovani dalla politica, perché poi il problema è lì. C'è una classe dirigente vetusta che sta quasi quasi per salutare e andare via, ma non c'è un ricambio, non si vede un ricambio all'orizzonte. E poi non dobbiamo lamentarci se siamo sempre noi a fare politica, ma la gente, i giovani specialmente, non si avvicinano. Un sistema elettorale, io invece invito Lombardo a fare una prossima trasmissione qui, ora parleremo delle altre cose, ma dico fare una trasmissione apposita sul problema della legge elettorale, sul fatto che i cittadini non possono scegliere i loro rappresentanti, un fatto grave che mortifica la democrazia, e bisogna alzare la voce su questo tema, caro Lombardo. Sì, allora, non c'è dubbio, è un fatto a livello nazionale. Sì, è un fatto a livello. Devono adottare una nuova legislazione che trasformi questa in. Sì, ma dobbiamo noi dai territori. Diretta del cittadino. Ma dai territori noi, Lombardo, dobbiamo gridare dai territori. Senza dubbio, dobbiamo fare in modo che qualcuno possa aprire le orecchie alle istanze dei cittadini. Nel merito del discorso del sulla questione qua si tende a razionalizzare tutto e poi si colpiscono i settori della pubblica amministrazione che più interessano i cittadini, la sanità con le chiusure dei punti nascita, degli ospedali, degli ospedali, chiamiamoli, di periferia, i drammi che vivremo a Petralia, nelle zone delle Alte Madonie, non saranno di poco conto. E si tende a razionalizzare i costi, e giustamente, perché c'è crisi, c'è un periodo di contingenza, una congiuntura sfavorevole, e allora si toccano i vari settori della pubblica amministrazione. Sulla giustizia io sono convinto che, ancora una volta, non si può fare un ragionamento in base ai numeri e basta. Bisogna guardare, secondo me, i territori, avere più attenzione nei confronti delle comunità. Mi dispiace per il sindaco di Polizzi, voglio dire, amico mio, ma se chiude Polizzi, voglio dire, il danno non è uguale a quello della chiusura di Cefalù, che Cefalù disbriga una miriade di questioni che altrimenti sarebbero accentrati a termini, congestionando ancora di più una macchina giudiziaria che specialmente sul civile stenta a dare risposte ai cittadini. Allora cerchiamo invece, no? E stenterà sempre di più, perché con l'aumento dei costi che oggi la giustizia chiede al cittadino, se pensiamo che appena si inizia una causa, non dico la contravvenzione che sono 30 euro, 33 euro. Sono dei 16 euro di multa. E infatti abbiamo avuto in tutti gli uffici del giudice di pace un calo del 60-70% di questi ricorsi contro le multe, perché evidentemente non ne vale più la pena, giusto? E allora invece... Che non significa dare giustizia. E che appunto è questo che sto dicendo, quindi a questo punto col costo della giustizia, è costo che aumenterà se il cittadino si deve trasferire presso altre sedi molto più distanti, e non dobbiamo pensare solo di Cefalù, che probabilmente con Termini, con l'autostrada in 20 minuti si arriva, ma la soppressione riguarda anche tutti gli uffici del giudice di pace del versante palermitano, di Corleone, Misilmeri, Piana degli Albanesi, che dovrebbero recarsi a Termini, ma è veramente una qualche cosa che non, di allucinante. Se ancora voglio dire, anche una causa civile, i costi oggi sono così esorbitanti. Il TAR ha parlato poco fa del tribunale amministrativo per andare a fare una richiesta di sospensiva, ecco, giustizia che poi non ce n'è più, per andare a chiedere una sospensiva, c'è da pagare 2-3 mila euro di contributo prima ancora di iniziare. E allora è un modo per scoraggiare un po' il cittadino e vessarlo, perché a questo punto il cittadino dice: ma io non ce l'ho questa disponibilità economica di andare a svolgere, intanto sto parlando di un inizio, poi si devono pagare gli avvocati. Scusa. Allora a questo punto che cosa significa? Che io rinunzio a chiedere giustizia pur avendola, giusto, pur avendola, certo. Rinunzio a chiedere la giustizia, scoraggiato dal contributo. Oggi anche alle controversie di natura tributaria, alle controversie di natura tributaria, nel luglio del 2011 è stato istituito anche un contributo in relazione al valore della controversia. E allora nel momento in cui un accertamento, una problematica di natura tributaria, che il cittadino fino ad oggi con un ricorso alla commissione tributaria con le sole spese di notifica andare avanti, oggi c'è anche un costo per questo servizio, e si tenta sempre più, a mio avviso, a scoraggiare il cittadino a fare il ricorso alla giustizia. Certo, credo che Franco Vasta, volevo terminare il mio ragionamento soffermandomi, l'interruzione del dottore Levecchi è molto opportuna, perché lui da operatore capisce che andiamo verso una situazione drammatica per chi chiede giustamente, pur avendone i diritti, per chi chiede il giusto riconoscimento, dei propri diritti. Io dico, poi la questione, certo non mi tirerò mai indietro sul fatto di un consorzio tra enti locali dove dobbiamo ripartire le spese, non mi tirerò mai indietro, però dobbiamo dircela tutta. Cioè, questo è uno Stato, bene diceva l'avvocato Patanello, è uno Stato che vuole decentrare funzioni, sempre di più. Sì, però non decentrando risorse, anzi, e dico una cosa molto molto pesante, e da ora in poi i miei colleghi sindaci non lo so se già sanno, cioè sull'IMU per esempio il 50% del gettito della ex ICI ai comuni se lo tira lo Stato. Ma questa è una cosa che non, cioè noi viviamo per esempio a Campovisi solo di ICI, se ci tolgono 800.000 euro di ICI, tanto è il 50% del totale della massa del tributo, ma noi dobbiamo chiudere i comuni, cioè come si può pretendere di dare ancora funzioni e servizi ai comuni quando si tolgono le risorse necessarie a assicurare, attenzione, io sto parlando di servizi tipo la mensa ai bambini, i trasporti, i libri scolastici, voglio dire cose non futili, cose essenziali. Essenziali, servizi che dobbiamo assicurare, se no è meglio chiuderli questi comuni, dare le chiavi ai prefetti e commissariare. Avvocato Patanella, 3 minuti per fare un ragionamento compiuto. Parto dall'ultima osservazione rispetto all'ICI. Uno Stato biscazziere sa come far guadagnare lo Stato e anche il Comune, hanno raddoppiato i dati catastali. Esatto. Quindi alla fine il Comune di Capofelice di Cefalù avranno lo stesso gettito, ma il cittadino pagherà il doppio. Quindi lo Stato biscazziere ha accontentato capre e cavoli. È il paradosso, perché ancora una volta chi paga è il cittadino. Certo. Sarebbe serio dire facciamo l'IMU, lasciamo i dati catastali quelli che sono, e il Comune continua ad avere questa risorsa ed eventualmente trasferire sì competenze, e con quella risorsa amministra meglio in modo da esercitare diverse funzioni. Invece si raddoppia, si fa cassa, si fa sempre cassa, facendo gravare il costo sui cittadini. Sì, parlano di polpette avvelenate, poi lo fa il governo. Torniamo invece un passo indietro sulla giustizia. Io non sarò, e te lo dico, caro sindaco, se mai dovesse dipendere da me, mai favorevole a costituire un consorzio per sostenere questi costi di giustizia. Intanto per il ragionamento che ti dicevo prima, non saremmo credibili nel momento in cui un giudice di pace pagato dai comuni va a decidere un contenzioso, un ufficio, non parlo del giudice, un ufficio pagato da un comune, il cui ufficio va a decidere su una controversia tra cittadino e comune senza che un terzo soggetto, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, se ne faccia garante, o il Ministero della Giustizia se ne faccia garante. Non è credibile, e quindi da questo punto di vista io non sosterrò ciò che non è credibile e è trasparente per il cittadino. Primo aspetto. Secondo aspetto, cancellare i giudici di pace significa, perché quello che non il cittadino non sa ed è bene che lo spieghiamo, sposato con la riforma dell'avvocatura, significa fare un danno enorme in termini di corretta rappresentanza nei giudizi da parte dell'avvocatura dei cittadini. Vengo e mi spiego. Tu oggi levi il giudice di pace a Cefalù e lo sposti a Termini Imerese. Dopodiché la nostra riforma prevede che vengono cancellati dai tariffari dell'albo i minimi e i massimi, e fino a lì mi può stare bene, perché se io levo il minimo e il massimo c'è una libera contrattazione tra il cliente e l'avvocato. Siccome scelgo l'avvocato non perché pago poco, ma perché mi fido di lui e credo che mi faccia vincere la causa, nella libera contrattazione, senza vincoli, le parti possono. E questo mi può stare bene. Se non fosse però che nella stessa riforma si introduce l'elemento diabolico. L'elemento diabolico sono le società di capitali per gli avvocati. Allora, voi immaginate, nasceranno delle SRL, se non addirittura delle SPA, che faranno man bassa in queste realtà, perché se tu vai da un avvocato per fare un giudizio, il giudice pace a Termini Imerese, l'avvocato necessariamente, non fosse altro per le spese di trasferta, dovrà chiederti 1000 lire. Se invece tu hai una società di capitali che è capillarmente presente sul territorio e che quindi si organizza, avrai delle tariffe non al di sotto dei minimi, sostanzialmente inesistenti, ma attenzione, non avrai un vantaggio in termini, perché se io pago meno il servizio è pari, va bene. Il problema è che io pagherò meno, ma pagherò un soggetto che non conosco, perché il rapporto fiduciario tra l'avvocato e il cittadino è fondamentale. Io confesso al mio avvocato esattamente come confesso al prete in chiesa, e lui mi rappresenta perché sa la verità dei fatti. A un SRL, a un SPA, spersonalizzo quel rapporto, e quindi a chi lo racconto? A una partita IVA? Chi mi va a rappresentare in quell'udienza? Una partita IVA? Un impiegato di quell'SPA? Allora stiamo uccidendo i fondamenti della giustizia, i fondamenti costituzionali della giustizia. Questa riforma, ecco perché noi avvocati siamo fortemente impegnati, credetemi, scioperare non è solo un problema di non fare l'udienza e quindi creare disagio, perché con i rinvii, e qui insomma cioè, chi meglio di me poi gestisce l'aspetto amministrativo, si vanno a intasare ulteriormente. Scioperare è anche un modo per spiegare ai cittadini, in quelle assemblee che si vanno a fare, qual è il danno di una manovra. Perché attenzione, liberalizzare, leviamo i minimi e i massimi, mi sta bene, non starà bene a tanti miei colleghi, personalmente ritengo, non mi preoccupo del mercato, è una sfida alla quale dobbiamo abituarci anche noi. Ma consentire le società di capitali nell'amministrare problemi così delicati è gravissimo. Tornando, scusami, l'ultimo minuto all'aspetto politico del rapporto. Personalmente sfondi una porta aperta, sia quando ero membro dell'UDC, sia ancora oggi che siamo con il PID, noi abbiamo sempre sostenuto la preferenza nell'ambito della campagna elettorale nazionale. Le coalizioni, i rapporti coalizioni sì, ma la preferenza. Io anche lì devo sapere quale soggetto rappresenta il mio territorio, qual è la sua politica per quel territorio. Sganciarlo, tu hai fatto un ragionamento, hai detto quattro boss che si mettono d'accordo. Io lo voglio rendere esasperato questo discorso. I boss, quando fanno l'attentato, chiedono il pizzo, quando agiscono con criteri mafiosi, rischiano di essere uccisi dai loro stessi mafiosi oppure messi in galera dalla magistratura. Qui questi quattro soggetti che decidono i listini e che fanno i deputati non rischiano niente, anzi lo professano in nome della democrazia. Il rischio di impresa è decisamente inferiore. Questa è la cosa grave. Comunque a Bosso non era di natura. No, no, no, per spiegare che è ancora peggio. No, quello che vorrei dire io, prima di fare una breve pausa che mi chiede la regia, il regista Angelo Arduino, vorrei dire che bisognerebbe rifletterci un poco prima di rifiutare aprioristicamente il consorzio, altrimenti dovremmo fare questo stesso discorso, dovremmo farlo per tutto. Il revisore dei conti dei comuni non devono essere nominati dai consiglieri comunali, perché ovviamente anche in quel caso ci sarebbe un organo a tutela del Consiglio Comunale. No, non facciamo confusione. Beh, io, i conti se lo elegge il Consiglio Comunale. Però chi lo nomina lo sai che può avere sempre degli influssi sul... Ma il Consiglio Comunale se lo elegge a tutela di se stesso. È come se si scegliesse da questo punto di vista un proprio commercialista, un proprio avvocato. No, non facciamo confusione. I revisori dei conti nei comuni non hanno una funzione di garanzia nei confronti dei cittadini. Danno pure dei pareri. Devono dare pareri, e chi li danno al Consiglio di Comunale rispetto alle delibere. Comunque non è questo l'assessore compete. Io rifletterei un pochettino prima di, per dire che ce ne sono tanti esempi di in cui l'influsso può anche agire. Io ci rifletterei tanto e cercherei in ogni modo, se è fattibile questo discorso del Consorzio dei Comuni, in modo da assicurare a Cefalù anche l'ufficio sempre del giudice di pace. E intanto andiamo in pausa e continueremo. Pubblicità. A Cefalù, al numero 66 di via Mandralisca, Caffè 66, food, drink e... Nel centro storico di Cefalù, vicino al Duomo, un locale per tutti. Atmosfera calda, accogliente e amichevole. Pub Caffè 66, food, drink, creperia, panineria, bruschetteria, wine bar, birreria, insalate e piatti tipici. Lo trovate anche in internet su www.caffè66.altervista.org. Caffè 66, al numero 66 di via Mandralisca di fronte il museo. Il modo migliore per rendere felice una donna è regalarle un gioiello, un valore eterno, adatto a sigillare unioni profonde e inossidabili. Da Mineo Gioielli, le più preziose idee regalo proposte con professionalità ed eleganza, perché un gioiello è testimone di momenti memorabili. Mineo Gioielli, la preziosa artigianalità e l'eleganza di collezioni esclusive che fondono il freddo dei gioielli con il calore di sentimenti irripetibili. Mineo Gioielli, via Flavio Gioia 3, telefono 091 962 313 a Bagheria. Una tradizione che si trasmette nel tempo. Hobby Garden, piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore, via Montessori Cortile 3, Contrada Pacenzia, telefono 0921 92 17 51 a Cefalù. Hobby Garden vi ricorda i vivai Cova a Campo Felice di Roccella, manutenzione di parchi, giardini, residence, prati, Contrada Pista Vecchia, strada statale 113, Campo Felice di Roccella, telefono 0921 428 927. Vivai Cova di Fabio Cova. La convenienza di acquistare da chi produce. In questo periodo offerte eccezionali. Motosega alpina da potatura 180 euro. Piante da frutto, ulivi e agrumi di prima scelta 5 euro. Tre ciclamini con vasi in coccio 10 euro. E stelle di Natale di diverse dimensioni in offerta. Ricordate, tutto da Hobby Garden e Vivai Cova. Arredamenti curati e confortevoli, studiati in ogni dettaglio. Dal prodotto concepito per le esigenze di tutti a quello più esclusivo per soddisfare soddisfare bisogni e desideri di ognuno. Arredi Madonia, mobili classici e moderni. Un vasto showroom con esposizione di 25 modelli cucine Lube, dove potrete toccare con mano la qualità di cucine innovative che propongono soluzioni per ogni tipo di spazio e per ogni esigenza. Madonia Vincenzo e Figlio, una grande realtà sempre legata al territorio, che propone mobili fatti di materiali importanti e resistenti, sinonimo di qualità e al miglior prezzo. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Mettiamo al servizio dei nostri clienti oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Telefono 0921 67 67 31. Mangiare sano ti aiuta ad affrontare meglio lo stress della vita quotidiana. Rivolgiti con fiducia alla macelleria Arcangelo Cipriano. Sulla tua tavola carni fresche, genuine e certificate provenienti da allevamenti locali. Vitello, agnello, carni bianche, capretti e polli. E se non hai tempo, macelleria Arcangelo Cipriano ti viene in aiuto proponendoti tanti preparati di vario genere. Macelleria Arcangelo Cipriano, via Umberto I 52 a Cefalù. Telefono 0921 42 10 99. Per la tua pubblicità su CRM, telefona allo 0921 423 456. E riprendiamo qua e là tra una novità e l'altra. Vi dicevo, il dottor Carlo Rivecchi, giudice di pace, ecco, ti invito a concludere questo tuo giudizio, che mi sembra abbastanza ponderato. Se si vuole andare a fare un discorso sul calcolo di quello che possono essere i costi, io penso, intanto l'ufficio del giudice di pace oggi come oggi è presso un locale preso in locazione da privati e per i quali paga un canone annuale che non ricordo, perché allora credo che c'ero io all'ufficio quando fu stipulato. Ma diciamo, paga un canone, paga però un canone attualmente. E quindi il locale potrebbero essere quelli della sezione distaccata del tribunale di Cefalù, di proprietà del comune, dove evidentemente si potranno tenere sia le udienze, perché noi le udienze penali allo Stato li facciamo presso il tribunale, poi il personale amministrativo. Si tratta di 4-5 unità, non è che c'è un apparato burocratico così enorme. E io ricordo che quando si iniziò, cominciarono a funzionare gli uffici del giudice di pace, il Ministero chiese ai comuni se vi erano dei dipendenti che intendessero transitare presso gli uffici del giudice di pace. Che comunque vengono divise tra vari comuni, diciamo, questo certo, personale, certo, 4-5 persone. Quindi fare per esempio un interpello, noi allo Stato abbiamo due persone, che erano una dipendente del comune di Cefalù e una dipendente del comune di Tusa addirittura, che hanno chiesto, uno era un ispettore di polizia municipale, che ha chiesto di prestare servizio presso l'ufficio del giudice di pace alle dipendenze del ministero. Abbiamo avuto fino a 2-3 anni fa il dirigente della cancelleria, una signora di Pollina, che era dirigente dell'ufficio ragioneria del comune di Pollina, che si è inserita così bene nei nostri uffici, che ha svolto le funzioni di cancelliere e dirigente per tanti anni. Quindi se oggi, interpellandolo evidentemente, non si possono costringere il dipendente comunale a dire vai a prestare servizio presso l'ufficio del giudice di pace, ma se c'è questa disponibilità, mi pare che il costo, come lo paga come dipendente comunale, lo pagherebbe al servizio dell'ufficio del giudice di pace. Vogliamo fare un bilancio? Ogni anno i comuni presentano, il comune naturalmente sede dell'ufficio, presentano al tribunale il bilancio, cosiddetto rendiconto delle spese che hanno sostenuto per l'ufficio del giudice di pace. E allora si può andare presso il comune di Cefalù e dire quanto hai speso nell'anno 2010 per il servizio sia del tribunale che per l'ufficio del giudice di pace, e fare un conteggio risparmiando il canone di locazione e prevedendo, come diceva il sindaco di Campofelice, che cosa sono? Spese di luce, acqua, riscaldamento, quando funziona, penne, inchiostro, calamai. Questi sono in effetti i costi che andrebbero a sostenere i comuni nel caso in cui... Certo, togliendo il locale, che è la spesa più grossa evidentemente. Poi evidentemente spetta alla politica pigliare una decisione, non è che noi siamo qua come giudice di pace a sostenere che il comune si impegna a mantenere. Noi stiamo prospettando la situazione, poi se la politica locale non ha interesse a mantenere la sede dell'ufficio del giudice di pace, noi ne prendiamo atto. Scusa, la politica locale ne prendiamo atto. Io ho interesse alla giustizia, che è superiore a qualsiasi interesse della politica locale, e non cado nel tranello dei costi. Il problema non è se il servizio che do costa più o meno di quello che costa allo Stato. Il problema è se il risultato di amministrare giustizia viene fatto secondo equità, imparzialità e indipendenza della magistratura, oppure viene fatta attraverso strumenti finanziari messi a disposizione da una delle parti, per cui, tra parentesi, il codice nostro di procedura civile, ma anche quello penale, ci parla di ricusazione. Se una delle parti ha interesse in causa è tenuta ad astenersi. Allora, se i costi dell'ufficio giudice pace lo pagano i comuni, vorrei capire come può quello stesso ufficio amministrare giustizia in un contenzioso tra il cittadino e il comune. Allora è per questo che io dico ai cittadini, non è la politica che non vuole mantenere l'ufficio, è nell'interesse dei cittadini, e per primi loro non devono voler smantellare questi uffici e affidarli ai comuni. Attenzione, non cado nel tranello nel quale ci si vuol far cadere da 2 anni a questa parte, per cui in nome del risparmio economico si stanno cancellando i diritti fondamentali della Costituzione. Ci sono diritti come la salute e come la giustizia che non possono ragionare con le logiche economiche, devono ragionare con lo squisito interesse del cittadino, e l'interesse del cittadino nel caso della salute non è quello di risultare all'anagrafe nato a Cefalù, perché non credo che una donna che deve partorire il problema se suo figlio nasce a Palermo, a Cefalù, a Termini Imerese, ma è avere una struttura attrezzata bene, che abbia medici preparati quanto più vicino possibile a casa sua, perché nel caso di un'emergenza lei si senta sicuro. Certo. Lo stesso vale per la giustizia. Allora, così come dobbiamo mantenere presso il San Raffaele, presso l'ospedale Giglio, il reparto nascite, così dobbiamo far sì che la giustizia a Cefalù continui a essere amministrata dallo Stato, che ne garantisce indipendenza, autonomia e giustizia. E noi così ce l'auguriamo e così dovrebbe essere, però io non credo che se c'è una lite pendente tra un cittadino e il comune, il giudice di pace, sol perché la giustizia è come la moglie di Cesare, deve essere al di sopra di ogni sospetto. Stiamo sminuendo, non puoi amministrare giustizia col velo del sospetto. Ma io non lo so, insomma, se facciamo così, allora per qualsiasi cosa fatto stesso che pigliamo. Parliamo al Tribunale di Termini, mi sembra, dove il Comune di Termini, allora io dirigevo sia la Pretura Circondariale di Termini e poi sono stato dirigente della segreteria del Presidente del Tribunale. Ogni anno il Comune di Termini milioni di euro spende per il Palazzo di Giustizia, milioni di euro. E allora che significa? Che a questo punto, se c'è una controversia che riguarda il Comune di Termini, i giudici del Tribunale di Termini vanno a favore del Comune. Se tu, Mario, ti ricordi quando il nuovo Palazzo di Giustizia era in costruzione, ci furono delle inchieste perché c'erano stati dei brogli sugli appalti, per cui, pur essendo di proprietà del Comune di Termini Imerese destinato al Palazzo di Giustizia, si fece un processo contro, non mi ricordo chi erano gli amministratori, perché c'erano state frodi in appalto con Magnabella. Quindi non è che c'era stato da parte della magistratura. Ieri hanno calcolato che 1.400.000 milioni di euro si spendono per la carta nell'amministrazione e nello Stato. La maggior parte di queste somme è per le spese di giustizia. Ancora oggi nei tribunali si lavora con la carta. Noi avvocati, così come i tribunali, come gli uffici pubblici, hanno l'obbligo della PEC, cioè della mail certificata. Allora, io non ho bisogno di depositare i miei atti o chiedere copie cartacee. Posso tranquillamente online sul digitale depositare il mio atto, venire certificato dalla cancelleria la data di rilascio e così via. Funziona. Lì c'è un risparmio enorme, piuttosto che questo risparmio destinarlo ad altri sprechi ministeriali, utilizziamolo per tenere aperte le sedi distaccate. Allora il problema è: 15 miliardi di euro di evasione sono stati recuperati nel 2011. Vogliamo sapere lo Stato, questi 15 miliardi recuperati, che ne farà, considerato che ha finito di metterci 22 miliardi di tasse? Semplicemente sapere se una parte... Perché per quest'anno Vito siamo perfettamente d'accordo allora su questo, ma se lo Stato non lo fa questo, ma non lo, scusami, non stato, una città, noi cittadini abbiamo l'obbligo a partire finiremo da per smantellare noi Cefalù, cittadini abbiamo l'obbligo come presidio del territorio di non assecondare norme che ci vengono propinate come riforme, ma di denunziarne la loro intrinseca illegittimità. Lo stiamo già facendo, e tu lo stai facendo, lo stiamo facendo, però quando c'è da trovare una soluzione ed evitare di smantellare anche un ufficio da Cefalù, cerchiamo di farla, la soluzione troviamola. Se questa è indolore, tutti i comuni d'Italia sono in deficit. Però ieri leggevo sull'Espresso addirittura a Napoli, dove c'è De Magistris, 3 miliardi di debiti, 3 miliardi di euro di debiti, insomma, ma tutti i paesi Espresso è di sinistra, non è che è un giornale di destra. Quindi che c'è una crisi dei comuni si sa, ma quando la spesa è minima e quando non c'è, io non lo vedo questo discorso. Tu che sei il comune dove uno dei comuni del comprensorio dovesse fare questo, e allora il giudice di pace si pronuncerà a favore del comune? Assolutamente no, altrimenti mantenneremmo qualsiasi idea della correttezza, dell'onestà, della giustizia che ognuno di noi possiede in se stesso. Per cui se c'è, ecco, una minima possibilità di mantenere a Cefalù l'ufficio del giudice di pace, facciamolo. Evitiamo che questo discorso arrivi a soluzioni che sarebbero dannose per tutti, soprattutto delle vessazioni per i cittadini. Mario, ti potrei smentire con quanto la Procura della Repubblica ha fatto a Palermo e in altre città d'Italia, dove per esempio c'era una condanna alle spese a secondo se vinceva il comune o il comune perdeva, di entità diverse, e sulla quale la Procura di Palermo per esempio ci vuole vedere chiaro: come mai se il comune perde viene condannato a 600 euro su una multa di 37 euro e se invece il comune vince viene condannato l'altra parte a 50 euro. Le pecore nere ci sono. E allora come vedi, ripeto, la giustizia deve essere al di sopra di ogni sospetto. Non è questa che fa cambiare. Comunque noi la palla l'abbiamo lanciata. Speriamo che nello stagno cambiamo argomento. Ringrazio Carlo Olivecchi per il suo intervento. Se vuoi puoi intervenire anche in questi discorsi che faremo con il sindaco di Campo Felice Roccella Franco Vasta o con l'avvocato Vito Patanella, e quindi puoi restare e partecipare se vuoi in questo nostro discorso. Bene, sindaco Campo Felice di Roccella, un'altra stagione turistica. Noi sappiamo che Campo Felice ha alberghi con moltissimi posti letto, forse più di Cefalù, o siamo già lì quasi a quota. Ma tu avrai sentito sicuramente qualche albergatore. Che prospettive avete? Quali obiettivi vi ponete nella prossima estate? Ecco, nella prossima stagione turistica, chiamiamola. Io ti ringrazio per questa domanda, perché mi dà la possibilità di oggi è la giornata di lanciare gridi di allarme e di un SOS. Allora, l'ultima mareggiata dell'infausto giorno dell'Epifania, non che l'Epifania è un giorno infausto, ma quel giorno è stato veramente infausto. La Befana ci ha portato del carbone, perché la mareggiata ultima ha distrutto quel poco di spiaggia che c'era davanti agli alberghi. Gli alberghi sono situati nella parte ovest del territorio di Campo Felice, proprio al confine con la mezzeria del fiume Imera, che divide amministrativamente i due comuni, Termini Imerese e Campo Felice di Roccella. Gli alberghi sono proprio accanto alla foce del grande fiume, l'Imera. Lì il fenomeno erosivo negli anni ha distrutto circa 100 metri di spiaggia. L'ultima mareggiata ha fatto sì che le onde arrivassero fino ai campi di tennis delle strutture alberghiere. Qualche casa è già in acqua, una parte pura fognaria è andata via. Insomma, ci sono gravissimi danni a cui dobbiamo porre rimedio. E se non si pone il rimedio non si può parlare né di prospettive turistiche né di stagione turistica e nemmeno di altro. Il comune ha approntato un progetto per un ripascimento artificiale della spiaggia in quella zona, con la protezione di una barriera soffolta che dovrebbe proteggere circa 2 km e 600 metri di costa. C'era stata una prenotazione di impegno da parte della regione siciliana. Questo progetto fu ritenuto invasivo dalla sovrintendenza del mare e dalla sovrintendenza dei beni culturali. Oggi siamo lì per riapprovare questo progetto, abbiamo ottenuto i pareri, andremo in commissione e lavori pubblici, spero a metà del prossimo mese. C'è bisogno di una relazione del genio civile, perché il relatore del progetto è il capo del genio civile, e c'è già una somma pronta, era 4 milioni di euro, però mi dicono dalla regione che si è ridotta a 2 milioni e mezzo di euro. E quindi avete variato il progetto, e in che cosa consiste esattamente? Abbiamo ridotto questo, il progetto di difesa. Te lo spiego, Mario. Il progetto consiste in questo: a circa 200 metri dalla battigia verranno posti dei massi, una barriera appunto frangifrutta soffolta, un metro e mezzo sotto il pelo d'acqua, in modo da non creare ristagno nella parte che viene protetta. E poi ci sarà un ripascimento artificiale con dragaggio di sabbia dal mare stesso verso appunto la spiaggia, di circa 60 metri di spiaggia davanti agli alberghi. Noi è da anni che non consentiamo la balneazione in sicurezza degli avventori degli alberghi, dei clienti degli alberghi. Abbiamo degli alberghi importanti, devo dirti, fatti bene, dove gli albergatori hanno investito denaro. Ho avuto modo di vederli. Noi abbiamo il dovere di proteggerli. Abbiamo il dovere di proteggerli. La regione siciliana deve capire, perché il progetto è stato bloccato pure per una verifica del progetto stesso che bisogna fare su un modello fisico. C'è una società di Londra solo che fa queste prove in vasca, chiamate, praticamente è la rappresentazione fisica di quello che succederà col moto ondoso una volta poste queste barriere frangiflutte davanti alla, cioè cosa succederà ad est e ad ovest dell'intervento, che può darsi pure che si faccia danni sia ad est e ad ovest. Campofelice aveva una spiaggia di 100 metri, dopo la creazione del porto di Termini Merese, del pontile di Termini Merese, dopo la cementificazione degli alvei dei fiumi dell'Imera, non arrivando più a porto di sedimenti verso il mare, che è l'unica maniera naturale per fermare il fenomeno erosivo. Cioè l'apporto di sedimenti, certo, al mare è l'unica maniera. Se l'alveo dei fiumi viene cementificato, chiaramente non arriva più sedimenti, e per cui il fenomeno si accentua. Quindi la riduzione del progetto è, a parte la riduzione della lunghezza del progetto, c'è questo problema della prova in vasca. Noi abbiamo tutte le prove, le verifiche, però abbiamo su un modello matematico, cioè gli ingegneri hanno fatto le verifiche, hanno detto che questo è un progetto che funzionerà una volta realizzato. Loro vorrebbero la prova in vasca, ma la prova in vasca costa 400.000 euro, la fa la società di Londra, certo, significa non farlo. Allora noi abbiamo detto alla regione siciliana: differiamo le prove prima dell'inizio dei lavori, cioè mi finanziate il progetto nell'ambito delle somme dell'intervento, facciamo pure questa prova, che alcuni studiosi ed alcuni ingegneri mi dicono non serve, non serve a noi. Quindi è questo lo sforzo che stiamo mettendo in atto, insieme a quello di un nuovo depuratore, perché se non facciamo queste due cose non possiamo parlare di nulla più a Campofelice di Roccella, non possiamo parlare di nulla. Abbiamo fatto un'opera di promozione, abbiamo fatto un'opera di lancio del paese, però ora dobbiamo assolutamente salvaguardare la salubrità del mare e dobbiamo proteggere le coste. Se non facciamo queste due cose, l'unica risorsa che abbiamo è il mare, non la potremo più sfruttare. Perfettamente d'accordo. Assessore Patanella, ecco, abbiamo sentito la campana dei nostri cugini di Campofelice di Roccella. Vorrei sentire anche la campana fratelli, ecco, meglio ancora, è una correzione giusta. Vorremmo sentire anche la campana di Cefalù. Tu sai che io ho ammirato, apprezzato molte manifestazioni e una certa simpatia nei tuoi confronti. Ti ringrazio. Cefalù, ecco, anche se siamo agli sgoccioli, 3 mesi, 4 mesi prima delle nuove elezioni, ma qualche idea te la sei fatta di lasciare quando dovrai abbandonare un po' questo assessorato, di lasciare qualcosa, qualche proposta degli obiettivi che ti proponi? Intanto ti dico subito che il mio modo di lavorare tende sempre alla programmazione. Devo dirti che la regione siciliana forse quest'anno si è resa conto, per tutti gli inconvenienti, perché poi tutti facciamo tesoro di quello che succede, ci sta dando la possibilità di programmare per tempo. Il 28 dicembre hanno pubblicato la circolare per le iniziative direttamente proposte o cofinanziate, e questo ci consente evidentemente di programmare l'estate prossima. E proprio per questa ragione stiamo già lavorando intanto sul solco dell'esperienza, e quindi per la conferma di quelle manifestazioni che si sono avviate con la sindacatura Guercio e con il mio assessorato, per cui evidentemente lo Sherbet, il Festival della Lirica e quant'altro è stato appoggiato e proposto dalla regione, per cui parliamo circuito del mito, sul mare Luccica, gli interventi che per esempio Angelo Butera ci ha regalato. Quello che vorrei riuscire a fare, tenuto conto che il termine per depositare la programmazione scade il 26 febbraio, è riuscire insieme alle società e associazioni cefaludese a programmare insieme a loro la prossima estate. Noi quest'anno contiamo sugli introiti previsti di circa 430.000 euro per la tassa di soggiorno turistico o l'imposta, come si vuol chiamare, e questo gettito deve essere impiegato interamente per la promozione e la valorizzazione turistica. Con questo però nel regolamento noi abbiamo inteso non soltanto quello che è gli spettacoli o le attività proprie turistiche, ma anche la valorizzazione del territorio e quindi degli spazi, parlo del lungomare e così via. Allora, una quota di queste somme, poiché la regione dal bando fa comprendere che preferisce il cofinanziamento al 50% piuttosto che l'iniziativa direttamente promossa, e può essere una delle ragioni per impiegarli e raddoppiarne l'introito. Se io ho a disposizione 100.000 euro e li inserisco in un progetto cofinanziato dalla regione, potrò realizzare attività per 200.000 euro. Per cui quello che chiedo, e ti ringrazio l'opportunità che mi dai con questa domanda, è una riunione con tutte le associazioni. Già l'ho fatto singolarmente con alcune di loro e mi ripromettevo per la prossima settimana di convocarle tutte quante per capire, proprio fare un'estate cefaludese dei cefalutani. Mi piacerebbe chiamare questo progetto Cefaludoc, Eccellenze di Sicilia, perché è appunto offrire il meglio della nostra terra attraverso questo splendido palcoscenico che è Cefalù. Intervengo su, io so è difficile fermarmi certe volte, mi piace fare una battuta al sindaco Vasta, che è un sindaco molto fattivo e operativo del nostro territorio. Ho paura che rispetto a questo splendido progetto che state portando avanti la sovrintendenza vi chiede il parere dei pesci, perché loro un motivo per stoppare questa cosa devono trovare, quindi attenzione al parere dei pesci. E è una battuta che può diventare un suggerimento per la sovrintendenza. Sì, Vito Padanella, volevo chiederti volevo chiederti anche un'altra cosa. Teatro comunale, il numero dei posti è 204, che potrebbe arrivare a 236, però sono sempre 100, no, 107 che potrebbe arrivare a 204, a 204 e forse magari qualche cosa in più. Ma cosa c'è? Si è mossa l'amministrazione? L'amministrazione si è mossa, la dottoressa di fatta che ne ha le competenze amministrative ha già predisposto tutta la documentazione, ormai penso che lo sa tutta Cefalù. È un problema che riguarda il palcoscenico e il sipario, per cui ci chiedevano in una vecchia versione da parte degli uffici addetti alla sicurezza antincendio di fare addirittura un palcoscenico ignifugo attraverso un tagliafuoco di ferro. e i costi erano esorbitanti, questo si è tolto, adesso si è raggiunto un accordo attraverso sostanzialmente una serie di interventi per cui in caso di incendio avremo uno spegnimento, una sorta di cortina d'acqua che si va a creare tra il pubblico e il palcoscenico. Questo è stato predisposto, i costi di questo intervento sono decisamente inferiori, però ti dico che se si vuole usare il teatro anche privatamente, quindi a parte le associazioni cefaludesi, con il numero dei posti al completo, i vigili del fuoco ci hanno detto che è sufficiente chiedere il loro intervento a pagamento, perché ovviamente deve essere pagato, con costi che si aggirano intorno ai 200-300 euro, e con la presenza dei vigili del fuoco sul luogo può essere utilizzato l'intero spazio dei posti a sedere. Questo fatto evidentemente si deve sposare poi di volta in volta con il tipo di manifestazione che tu hai a realizzare. Certo, che è la difficoltà dell'associazione. Che di evidentemente la difficoltà dell'associazione, ma non ti nego anche del comune. Per esempio ti posso dire che la cosa che più grava sul bilancio di un intervento e una manifestazione sul teatro non è il cachet dell'artista, che molto spesso offre per il piacere proprio di poter salire su quel palcoscenico con la propria attività a titolo gratuito, quanto i costi di SIAE, e in questo caso si andrebbero ad aggiungere i costi dei vigili del fuoco. Tutto questo però sono costi che noi possiamo inserire in questa programmazione con la Gazzetta 2011, pubblicata tra l'altro venerdì scorso, perché la circolare è andata sul sito il 28 dicembre, ma la decorrenza dei 30 giorni è dal 27 di gennaio, quindi andrà a scadere il 27 febbraio. Abbiamo tutto il tempo per raccogliere le idee e fare un buon lavoro. Quantomeno al di là della mia esperienza, che si conclude rispetto a quella di assessore con le prossime elezioni, salvo l'esito elettorale, salvo la scelta del sindaco e così via, ma che come tu sai non si ferma, perché avendo assunto su elezione, su indicazione di tutti i sindaci componenti il distretto tematico del pescaturismo e della cultura del mare, non si ferma a maggio ma proseguirà per i prossimi 3 anni. E siccome sul tema della cultura del mare, per esempio anche in termini di spettacolo, stiamo programmando una grande manifestazione con Bennato che si chiamerà Le città di mare, riprendendo la loro splendida canzone dei fratelli Bennato, e quindi anche su questo versante torneremo a essere presenti a Cefalù, tornerò ad essere presente con i miei interventi a prescindere di quello che sarà il destino politico del prossimo sindaco. Questo è un discorso un pochettino, cambio radicalmente il discorso. Ci è arrivata un comunicato stampa di Enzo Cesare, presidente portavoce del comitato Cefalù Quale Ferrovia, e fa riferimento a lentezze in cui procedono i lavori del raddoppio ferroviario della Fiumotorto Cefalù, sono stanziati 960 milioni su 32 chilometri, che forse queste somme servono o utilizzano meglio nella definizione di analisi, non che le utilizzino meglio, ma a preferenza al nord per altre opere che devono fare a settentrione. Il comitato appunto Quale Ferrovia sollecita questa realizzazione e ha lanciato un nuovo appello ai senatori Simona Vicari PDL, Francesco Ferrante e Giuseppe Lumia PD, Fabio Giambrone IDV, nonché all'onorevole Leo Luca Orlando dell'IDV, che sono firmatari di nuova interrogazione parlamentare sempre sullo stesso argomento, per un loro ulteriore autorevole e risolutivo intervento. Enzo Cesare ricorda anche questo discorso, che ciò servirebbe per l'occupazione, per migliorare il collegamento regionale, per i pendolari, per rendere più vivibile la città normanna, per l'adeguato sviluppo del distretto turistico di Cefalù e delle Madonie, il potenziamento dell'area industriale di Termini Imerese e così via di seguito. Lasciamo stare questo comunicato di Enzo Cesare. Ma voi, ecco, come sindaci, come cosa, non ritenete di stimolare sempre di più questo discorso del doppio binario? Io so che avete avete pensato, a forse una volta dismessa la linea, di fare un cicloturismo lungo la stessa ferrovia e così via di seguito, ma ecco, come vi proponete di pressare, ecco? Ma prima di pensare, come sta facendo il mio amico Enzo e come stanno facendo alla pista ciclabile, io penserei no, perché Cesare, peraltro Enzo, ci sentiamo e abbiamo collaborato, e su questa tematica io ho fatto una lettera circa 10 giorni fa. Sembra proprio in concomitanza. Ecco, rendela pubblica, ecco, questo discorso. Una lettera fatta a Italfer, a RFI e a Cefalù 20, che è il contraente generale dei lavori del raddoppio ferroviario. Noi in quella lettera, dai toni un po' duri devo dire, abbiamo manifestato le nostre grandi preoccupazioni, perché riteniamo che i lavori, questo rallentamento dei lavori, ma rallentamento già è una parola molto molto positiva, diciamo che abbiamo visto il fermo dei lavori del tratto Fiume Torto Ogliastrillo, non sto parlando del proseguimento verso Castelbuono, sto parlando dei lavori dei cantieri già aperti. C'è un fermo totale dei lavori, c'è un ponte sul fiume Roccella che doveva essere aperto già da un anno e mezzo, ebbene i lavori dovevano durare 6 mesi, siamo a quasi 3 anni e ancora quella strada non è aperta. La paura grande delle comunità di Termini Merese, di Cefalù, di Campofelice e di Lascari, voglio parlare di queste 4 comunità che sono interessate al momento, insieme poi chiaramente a Castelbuono e Pollina. Ma la grande paura è che ci rimanga l'ennesima incompiuta sul territorio, con il grave danno dell'impatto terrificante che i lavori stessi stanno avendo sul territorio, sul paesaggio e sulle comunità. Certo. Noi abbiamo un muro che servirà per attutire i rumori di questi benedetti treni, se passeranno mai. Ci sono posti, punti nel territorio di Campofelice dove i muri saranno alti 5 metri e 60. 5 metri e 60 di altezza, di muri in cemento armato rivestite con la pietra. Altro che la muraglia cinese. Ora dico una comunità. Noi abbiamo fatto una protesta per questa cosa insieme all'Ascheri e abbiamo ottenuto il fermo dei lavori per quanto riguarda il muro, perché abbiamo detto a Ferrovie: riconsiderate quantomeno il trattato ferroviario, c'è un modello su cui le ferrovie poi stabiliscono l'ampiezza, l'altezza, la consistenza di questi muri, ma se voi fate questo rilevato, prospettate per una tratta Firenze-Roma, è chiaro che lì passano mille treni al giorno, ed è, ma a Campofelice, a Lascari, a Cefalù, mille sì, l'anno forse. Ora li sopprimono addirittura, quindi per cui guardate che questo è un tema. Grazie Lombardo, che tu hai sempre, come al solito, sei sempre puntuale e tocchi i nervi scoperti delle criticità che abbiamo nel territorio. Io ho fatto questa lettera dicendo: signori, non vorrei che ci fosse l'ennesima incompiuta sul territorio, perché guardate che c'è Cefalù 20 ha licenziato operai, ha messo in cassa integrazione più della metà degli operai, ha in questo momento difficoltà anche rispetto a proseguire i lavori con i subappaltatori, con le ditte che hanno in subappalto alcune tratte e alcune opere. Cioè siamo fermi con i lavori perché Cefalù 20 ha chiaramente detto a Italfer e a RFI che i soldi che erano stati stanziati per l'opera sono già quasi finiti e siamo manco a metà dell'opera. Per cui il rischio è molto grave per le comunità, perché se ci resta questo scempio significa che ancora una volta la Sicilia è martoriata, vituperata, si viene qui solo per fare cassa e basta, non ci resterà nulla. Per cui io ritengo che i sindaci del circondario, ma non solo quelli interessati dal raddoppio, dalla tratta, ma l'intera comunità madonita deve far sentire la propria voce su questo argomento. E anche sui punti nascita, direi aggiungere. E anche sui punti nascita. Però questa è una cosa che graverà tantissimo sulle comunità. Ecco, assessore Patanella, c'è un'idea di dell'architetto Marcello Panzarella che riguarda la dismissione della ferrovia, e che una volta dismessa questa ferrovia al centro della Rocca dovrebbe far nascere un ascensore che arrivi alla sommità. Per me questo è stato sempre un pallino, l'ho scritto tante volte sul giornale L'Ora, non quel, ma di un ascensore in generale che portasse la gente che è claudicante oppure che ha problemi di deambulazione e così via di seguito a salire sulla Rocca. Chi ci vuole andare continua ad andarci a piedi, ma chi c'è? Siamo nel 2012. Alla Valtour c'è un buchetto con una porticina sulla spiaggia, vicino alla spiaggia, e di sopra la porta con le pietre di sopra, e non si vede nulla, e salgono più di 50 persone alla volta senza che si vede nessuno. Dico, è possibile, prima che io ho della fiducia, te l'ho detto nei tuoi confronti, prima che chiudete questa amministrazione, il sindaco ha parlato di un ascensore sulla Rocca, non è il caso di dare l'incarico a qualcuno, a qualche tecnico di grosso spessore possibilmente, per fare un ascensore sulla Rocca? Anche se voi lanciate solo l'idea di dare l'incarico, anche se voi date l'incarico sia pure con una somma, non lo so, ma non è il caso che affrontiate questo argomento. Mi riallaccio e poi facciamo una pausa. Mi riallaccio al tema delle ferrovie. Intanto tu hai citato degli ottimi senatori e parlamentari che si stanno spendendo per il territorio, e noi intanto li ringraziamo prescindendo da quello che è il loro colore e intendimento politico, perché stanno sostenendo una battaglia giusta prima ancora che sul problema della mobilità di questi territori, per l'occupazione, il mantenimento dell'occupazione di questi operai che in questo momento per oltre il 50% sono in cassa integrazione. C'è più del 50%, c'è un piano scellerato secondo me da parte di una certa lobby nazionale ed internazionale di abbandonare il sud e il meridione e tutte quelle opere che possono su questa terra creare sviluppo al solo beneficio e vantaggio del nord del paese, ma non ti parlo solo del nord Italia, del nord Europa e delle politiche europee. Si ritiene che il meridione e il sud sia diventato un peso ormai non più sostenibile, e quindi ogni qualvolta tu devi dragare risorse è facile toglierle dal ponte, è facile toglierle dal raddoppio ferroviario, è facile toglierle da tutti quegli interventi che interessano in qualche misura il sud e in particolare la Sicilia. Per cui qualunque deputato, qualunque parlamentare, chiunque può far sentire la sua voce autorevole a Roma troverà sempre l'appoggio di questa amministrazione. Detto questo, andiamo invece a un tema che ti appassiona particolarmente e che già conoscevo, è l'ascensore della Rocca. Non c'è dubbio che potrebbe essere un'attività che andrebbe a ripagarsi da sola. Tu mi parli di un incarico da parte del Comune per la realizzazione di quest'opera. Io dico di più, io non credo che il Comune debba farsi carico di quest'opera. Questa è un'opera che può essere realizzata serenamente da un privato in project financing, se la progetta, è un'idea bellissima. Si tiene la concessione per tutto il periodo che la legge consente, dagliene in concessione, crea nuova occupazione, dà un nuovo servizio turistico. Per cui credo che il Comune e l'ufficio tecnico comunale dovrebbero iniziare a ragionare in prospettiva del project financing, ma questo vale per l'ascensore sulla Rocca come vale per tutte quelle attività che un tempo si faceva carico la pubblica amministrazione e che oggi serenamente può fare il privato, come può essere nel caso della piscina comunale. Per esempio, ti do un aggiornamento sulla piscina comunale per il quale vige ancora il finanziamento di 800.000 euro. proprio a novembre abbiamo avuto un incontro con l'architetto Duca, io ero per un project finance che vedesse assegnare queste risorse al privato, quindi in cofinanziamento, e lui mi diceva probabilmente è meglio che noi utilizziamo queste risorse per far partire l'opera e in un secondo step assegnare questo project finance. Siccome non mi innamoro delle mie idee e poi credo che queste debbano camminare sui piedi dei tecnici, se lui ci dà garanzie, come ci ha dato garanzie che questa è la posizione ottimale, io ho detto vai avanti serenamente, perché è giusto che si proceda in questi certo, non perdiamo. Allora, quando il sindaco parla di della Rocca e dell'ascensore della Rocca, evidentemente tu dimentichi, ma non volontariamente ma involontariamente, ciò che ha detto prima. Lui ha parlato della tutela UNESCO. La tutela UNESCO porta un incremento del 30%, questo non lo dico io ma lo dice l'emerito professore Puglisi, e quindi gli studi statisticamente fatti all'università. Sì. È chiaro che poi tutte quelle opere compatibili con la tutela UNESCO, e per quanto si potrà fare polemico, si fa già polemica rispetto all'ascensore della Rocca, questa è una struttura che è realizzata con i criteri e i canoni della tutela ambientale e della sicurezza, può essere realizzata. Soltanto un pazzo può non pensare che quest'opera non sia uno degli investimenti migliori a realizzare per un privato. Allora tu mi dici, ma se è una cosa buona perché non la fai come comune? E io ti rispondo, la parola magica di questi tempi è liberalizzazioni, come quando c'era mio padre che si occupava di politica era statalizzazioni, ma le liberalizzazioni devono essere una cosa vera, non basta per fare liberalizzazioni raddoppiare le licenze tra chi non può mangiare, parliamo del tassisti o dei giornalai, diamo la possibilità così come c'è, rendendo ancora più snello la procedura, articolo 37 bis, la legge, ma insomma sul project financing, in modo da dare immediatamente al privato l'operatività e lasciando alle sovrintendenze e ai comuni che cosa? La tutela della normativa rispetto all'ambiente, alla sicurezza e così via. Credo che questo punto, insieme ti aggiungo a un secondo punto, sarà fondante del programma del prossimo sindaco. Ecco. Porto e Rocca, secondo me sono due aspetti del project finance sinergici che possono portare ricchezza al territorio e che chiunque sia il prossimo sindaco, certamente quello che la mia parte politica sosterrà, dovrà mettere concretamente, non con le chiacchiere, concretamente all'ordine del giorno. Perfettamente, se sono rose fioriranno. E intanto ci chiede il regista una breve pausa. Io ricordo ai radioascoltatori che si fossero messi in ascolto con in questo momento o anche un po' prima, che questa trasmissione viene replicata il lunedì alle ore 13:15 e andiamo in pausa. Pubblicità. Incredibile, strepitosa offerta scacciacrisi al ristorante pizzeria Ron e Salvo. Occhio, da oggi tutte le pizze consumate al tavolo verranno scontate del 50%. Il risparmio inizia da noi. Mangiare bene spendendo poco. Info e prenotazioni 091 81 40 159 oppure 347 59 62 101. Ristorante pizzeria Ron e Salvo, contrada Buonfornello, Termini Merese. La tua auto ha bisogno di assistenza alle gomme? Scegli la direzione giusta. C'è Ciaramitaro Gomme. Vendita e assistenza pneumatici. Cambio gomme con equilibratura e convergenza. Vendita e riparazione cerchi in lega. Tutte le migliori marche per auto, moto, fuoristrada e mezzi pesanti. Ciaramitaro Gomme ti propone per la stagione fredda le gomme invernali e ti garantisce per Goodyear e Dunlop l'assicurazione Super Service con la sostituzione dei pneumatici danneggiati e il soccorso stradale gratuito. Ciaramitaro Gomme, zona industriale Termini Imerese, telefono 0981 814 0016 e a Palermo in via Chiavarelli 10, www.ciaramitarogomme.it. È un'illusione che le foto si facciano con la macchina. Si fanno con gli occhi, con il cuore, con la testa. Giancarlo Cianciolo fotografia. Dal 1940, l'eleganza della spontaneità. Fotografiamo ciò che gli altri non vedono. Passioni, emozioni, sentimenti. Giancarlo Cianciolo fotografia. Showroom a Palermo in corso Scinà 172, alle spalle del Teatro Politeama. E nuova galleria espositiva a Castelbuono, corso Umberto I 73. Ogni matrimonio è unico, come devono esserlo le immagini che lo raccontano. Per appuntamenti 338 21 81 401 www.giancarlociancciolofotografia.it. trovare armonia e atmosfera per i vostri momenti indimenticabili, al Porticciolo, ristorante e pizzeria dove eleganza e raffinatezza si esprimono al meglio per gustare i sapori coniugati con la freschezza e la creatività. Ristorante e pizzeria al Porticciolo, lo chef vi stupirà con le sue originali ricette. Ristorante e pizzeria al Porticciolo, con terrazza sul mare, in via Carlo Ortolani di Bordonaro 66 a Cefalù, telefono 0921 92 19 81, per gustare le pizze più gustose e i piatti più prelibati. Per la tua pubblicità su CRM telefono allo 0921 423 456. E riprendiamo qua e là tra una novità e l'altra. Parlavamo con l'assessore Vito Patanella delle due Italie, una del nord che riceve finanziamenti e una del sud che soffoca, che continua. Ma del resto questo l'abbiamo già visto, Vito. Se consideri per esempio che per gli incendi 242 domande, due sole risarcimenti, che ci sono stati, enormi, case bruciate, animali, cose, nessun risarcimento qui al sud, terremoto. Ancora il terremoto di 15 anni addietro, c'è gente tipo Finale, tipo Pollina, tipo cosa, che non ha ricevuto di ancora finanziamenti, 15, di 20, di 30 anni. Le due Italie, se succede in altri posti noi contribuiamo e lo facciamo volentieri, continueremo a farlo, però per quanto riguarda i nostri danni ce li paghiamo noi e basta, e non se ne parla più. Ecco, forse volevo intervenire, ecco, su questo, sul problema degli ascensori, sulla rocca, anche tu Franco. Ma più in generale direi questo, ho sentito parlare di questo meraviglioso progetto, e peraltro Cefalù merita queste altre, cioè l'ascensore sulla rocca sarebbe una cosa meravigliosa, è un'idea che secondo me è balenata a più persone nelle diverse amministrazioni. Però non si è mai realizzata, e rispetto a quello che diceva l'amico Patanella sulla questione della progettazione e sul finanziamento delle opere, io dico, così come ha detto in una pubblica assemblea, noi dobbiamo come comunità, perché che ci sia l'ascensore sulla rocca di Cefalù non interessa solo a Cefalù, interessa alle altre comunità, Campofelice per primo, perché se chi viene a soggiornare negli alberghi di Campofelice ha questa possibilità, chi a 5 minuti, a 7 minuti, a 10 minuti può avere una situazione di questo tipo, con uno spettacolo poi davanti al mare meraviglioso. Io penso che interessi Cefalù, ma interessa Campofelice e Lascari, così come se la Torre Roccella sarà fruibile, avrà sicuramente refluenze positive anche sulle comunità. Ecco perché ho sempre sostenuto che non bisogna più guardare i confini amministrativi, è anacronistico guardare i confini. Non serve. Però io dico, lancio questa idea, il project financing è una cosa che potrebbe benissimo, però perché per esempio sulle aree dismesse del raddoppio, sul fatto che Cefalù avrà una ferrovia, un binario morto, chiamiamolo così, e quell'area sarà, che era proprietà del comune di Cefalù, attenzione, dovrà ritornare ad essere proprietà del comune di Cefalù, così come Lascari avrà un pezzo di ferrovia dismessa, così come Campofelice avrà, e già ha, un pezzo di ferrovia dismessa. Su quella dismissione noi dobbiamo cercare di portare le ferrovie loro a progettare una pista ciclabile, un percorso turistico, naturalistico, che parta da Cefalù e arrivi alle rovine di Mera. C'è una cosa che, se realizzata, attenzione, potrebbe dare valore al territorio ancora di più, perché ho visto il professore Panzarella, mi sembra, ha rappresentato questa sua idea con un rendering fatto in una pubblica assemblea, ho visto delle cose meravigliose, dei percorsi spettacolari, e andava oltre la rocca, anche andava oltre la rocca. E allora io dico, perché noi non do, perché storicamente le grandi infrastrutture che hanno interessato le comunità, poi nella storia le imprese che hanno lavorato e che hanno prodotto opere pubbliche, quando si tratta di opere di una certa rilevanza, tipo l'autostrada eccetera, hanno poi lasciato qualcosa alle comunità, perché è giusto che sia così, è giusto che chi lucra su, legittimamente, attenzione, su un'opera pubblica di proporzioni così immense, poi abbia il dovere di lasciare qualcosa di positivo alle comunità. E allora io dico, le ferrovie, RFI e Italfer, devono farsi carico, insieme al contraente generale, sia Cefaluventi per il tratto fino allo Jastrill, e poi non so che si sia giudicato l'altro tratto, non lo so. E allora questi enti, i privati e le ferrovie, insieme devono progettare loro e devono realizzare loro questo percorso, e potrebbe inserirsi in questa progettazione anche l'ascensore sulla Rocca, sì. Perché se loro lasciano questo alle comunità, e siccome la ferrovia ora è una società privata, però voglio dire, ha rappresentato storicamente una fetta della pubblica amministrazione e dello Stato, e allora noi dobbiamo chiedere, c'è già un'idea, c'era quasi quasi la condivisione anche del contraente generale nel riutilizzare, riadattare il binario dismesso per farlo diventare un grande percorso ciclabile e pedonale che da Cefalù arrivi alle rovine di Mera, o da Finale fino alle rovine di Mera, perché abbiamo la possibilità, abbiamo visto su carta che c'è questa possibilità, perché per esempio a Pistavecchia, a Campofelice, nei pressi dello svincolo autostradale c'è un pezzo di binario dismesso che potrebbe essere utilizzato per arrivare proprio sul casello della ferrovia, certo, vicino, certo, al Tempio della Vittoria, certo, alle rovine di Mera, certo. Quindi darebbe valore al territorio. Hai centrato perfettamente l'argomento anche per quanto riguarda l'ascensore, a mio modo di vedere, intanto perché non disturberebbe, non guasterebbe nulla dal punto di vista paesaggistico. Oggi nel 2012 a fare un buco non ci vuole proprio niente. L'ho visto a Nizza, l'ho visto a Monte Carlo, l'ho visto un po' dappertutto, ma noi siamo soliti fare buchi nell'acqua, quindi non riusciamo spesso a centrare quello che vorremmo. Io di questo discorso, ti dicevo, ne ho scritto tempo addietro sull'ora, ma andavo oltre, facendo proponendo una funivia Mare Monti, per cui uno di giorno qui poteva andare a mare e poi di giorno andare sulla neve e poi al mare nello stesso tempo nel pomeriggio, o viceversa. Quindi c'era la possibilità, ma mi rendo conto che vagavo nel mondo dei sogni, dato che non si è realizzato ancora, fino ancora, neanche l'ascensore. Però ecco, cambiamo un po' argomento. Avvocato Vito Patanella, ci sono le elezioni alle porte e io so che, per quanto è, ma che tu solitamente sei informato, quindi segui la politica perfettamente, come la segue Franco Basta. Ma io cavo qui non c'entra Cefalù, ma che c'è di nuovo qua? Cefalù, cosa bolle in pentola? Chiedi cosa bolle in pentola, cosa c'è di nuovo? Perché cosa c'è di nuovo ti dico cosa subito. Bolle in pentola, già alcuni nomi l'abbiamo sentito, la cosa, ma di nuovo che cosa c'è di nuovo? Nuovi candidati, devo fare non colui che politicamente è coinvolto, ma squisitamente un commento politico, così come per esempio la nomina di assessore di Giuseppe Barranco scaturita all'attenzione che Cefalù cambia, Cefalù nel cuore dedicava a questa città. Certamente io vedo l'Agorà, questa associazione, questi giovani, non ritengo che potranno sottrarsi a misurarsi con l'elettorato, a portare questa loro grande forza e questa capacità di unione che hanno dimostrato in diverse occasioni dentro le istituzioni. Da parte mia, anzi, c'è la voglia di sollecitarli in tal senso e per quanto possibile capire come collaborare. C'è di nuovo anche la candidatura di Mauro Cariò, che è Legambiente, che decide di impegnarsi rispetto ai propri temi e rispetto a quanto di professionale ha fatto in questi termini. E quindi io credo che tutte queste risorse debbano guardare alla prossima scadenza elettorale come occasione per spendersi fattivamente nella pubblica amministrazione. Se poi invece vuoi sapere cosa bolle in pentola, In pentola c'è il sindaco Guercio che ha già annunciato la sua candidatura. È una candidatura autorevole nell'ambito del centrodestra che spero possa far sintesi rispetto alla PDL, al PID, alle realtà locali e quindi a quei consiglieri che decideranno di competere non dentro un partito organizzato ma attraverso proprie liste civiche. E quindi questa candidatura deve impegnarsi fortemente per essere una candidatura di sintesi. Sì. Dentro il centro-sinistra c'è la candidatura annunciata di Rosario Lapunzina. Rosario Lapunzina, che ha scelto coerentemente con gli anni di opposizione fatti a Cefalù di misurarsi adesso con la capacità di amministrazione. Chiaramente non possiamo dire che queste candidature non siano già definitivamente sul tavolo e quindi qualunque altra novità si voglia portare l'avvocato sul Francesco panorama, sul panorama non debba tener conto di queste realtà. La candidatura di Francesco Calabrese, se fosse una candidatura offerta alla città per il comportamento responsabile tenuto come consigliere comunale, è certamente una candidatura che deve farci ragionare. Se invece è una candidatura imposta da logiche partitiche sol perché Giampiero D'Alia stabilisce che il candidato sindaco anziché il 5% a Cefalù prende il 15% e quindi gli conviene avere un candidato sindaco, è una candidatura di servizio dentro le logiche di partito che evidentemente lascia il tempo che trova. Ma come ragiono su questo Francesco Calabrese, che per la verità a leggere Gil Cortina non vedo che sia una candidatura già sul tavolo. Potrebbe esserlo, ma è un ragionamento che sta facendo in questo momento l'UDC e per questo che ha chiesto per esempio di sciogliere il nodo da Cefalù Cambia a invece un'adesione convinta al partito, e quindi è un ragionamento che faranno al loro interno, al quale io guardo con interesse come PID, con rispetto, come PID e con rispetto, certo. Daranno una scelta loro. Spero, ritengo che Francesco, che peraltro è anche un amico, laddove dovesse scegliere di essere presente non si faccia strumento di logiche partitocratiche, certo. E nell'ambito del centrodestra non oltre Pippo Guercio, nell'ambito del centrodestra io vedo la PDL che sta ragionando su una sua candidatura. Quindi c'è un si fa ricorrente il nome di Sgarbi, a volte viene meno, a volte ritorna in auge, si fanno altri nomi non cefalutani ma di personaggi anche autorevoli ma esterni a Cefalù. Io personalmente, essendo palermitano e in qualche misura cefalutano di adozione, ritengo che l'unico argomento sul quale Bossi ha ragione è l'autodeterminazione dei popoli, e Cefalù deve avere un sindaco di Cefalù, deve candidare una persona che abbia la sua storia a Cefalù, e quindi personalmente sosterrò candidature con queste caratteristiche. Non ho velleità personali, come tutti sanno e come ho sempre detto in tutte le occasioni, ma questo non significa non spendersi nell'agone politica, ecco. E sarebbe sbagliato non mettere, certo, quanto di buono si è fatto in questi, certo, 2 anni sotto il profilo personale a disposizione del sindaco che decideremo di appoggiare. Sotto il profilo politico, realtà che come PID a Cefalù ci sono forti, sono presenti in autorevoli consiglieri, professionisti di questa città e commercianti che conoscono bene questa realtà, e per questa realtà si vogliono spendere. Grazie Vito Pallanello. No, ti faccio l'ultimo intervento, così sempre nell'ambito politico. Mi meraviglio però di un aspetto. Storicamente ma anche culturalmente le primarie appartengono al centro-sinistra. Mauro Caliò ha lanciato una provocazione, certamente una provocazione che non ha lanciato al centrodestra, e quindi una provocazione che non ha bisogno di risposta da parte di Pippo Guercio o da quanti ambiscono a candidarsi al centrodestra. Tarda la risposta da parte dei candidati del centrosinistra. Sono convinto che non è per paura di misurarsi con Mauro Caliò, ma non capisco perché abbiano abdicato a uno strumento di forza come quello delle primarie, e che invece potrebbe essere interessante per questa città. E per quanto riguarda il centrodestra e quindi l'area sostanzialmente della quale io mi ritrovo, ritengo che invece dobbiamo, e ribadisco, trovare una sintesi che vada dal di là del centrodestra, che possa spendersi delle forze e sane autorevoli di questa città e che comunque aiuti il prossimo sindaco, e quindi non è solo un problema della persona ma della squadra, aiuti ad un risanamento efficace o rilancio della città di Cefalù. Noi siamo alle soglie di un dissesto finanziario che, ed è questo l'unico rimprovero che speriamo di fare a Pippo Guercio, quello di amare troppo Cefalù e cefalutani. Un dissesto finanziario che il sindaco Guercio comodamente avrebbe potuto dichiarare nel 2007 una volta entrato al comune di Cefalù, perché a lui non si deve nessuna responsabilità, lui agli uomini che lo hanno appoggiato e sostenuto, di quanto grava sulle casse del comune di Cefalù, e si è amministrato con attenta anche al minimo, ai 1000 euro, ai 100 euro a non spendere se non per le spese dovute per legge. Lui, per non portare i cittadini di Cefalù a sopportare gli oneri che non sono indifferenti, ma c'è dubbio, di un dissesto finanziario per 5 anni ha tentato, e con risultati anche di collaborazione, di evitarlo. Oggi, dopo quello che è successo in Consiglio Comunale il 28, dopo quello che si sta ragionando con i commissari, evidentemente il dissesto è davvero molto vicino. Credo che uno sforzo da parte della Regione, da parte della Corte dei Conti e da parte del Consiglio Comunale, del Sindaco, dell'amministrazione di Cefalù vada fatta, perché attenzione, se cade Cefalù... Per evitare il dissesto. No, se cade Cefalù, io lo dico con chiarezza, se cade Cefalù, in Sicilia ci sono decine e decine e decine centinaia di comuni che si trovano in condizioni decisamente peggiori. Non pensino questi signori che amministrano questi comuni, a destra come a sinistra, che qualcuno possa sollevarsi dall'onda che si solleverà dal maremoto cefalutano, perché comunque, a finire alla Regione, la nuova normativa, la 149 del 2011, costringe finalmente i sindaci, ma a partire dal Presidente della Regione, a fare la relazione di fine mandato, dove si assumono responsabilità specifiche su quello che è la situazione patrimoniale del comune, la cui relazione vagliata dagli uffici dei ministeri poi diventa elemento fondamentale per i benefici e i trasferimenti nazionali e regionali. Allora, se noi immaginiamo che traghettiamo alle prossime amministrazioni i disagi di queste senza aiutarle a risolverle, tanto poi ci penserà il prossimo, stiamo sbagliando. Se invece noi facciamo uno sforzo ora, dice mancano 3 mesi, nelle prossime settimane, per trovare una soluzione radicale per Cefalù e quindi per le centinaia di comuni che si trovano in queste condizioni, facciamo un servizio al paese per ripartire nella chiave giusta. Ecco, tu hai concluso con un appello, appunto, per evitare questo dissesto finanziario che sarebbe una catastrofe per una città, ma non soltanto per la città, ma anche per centinaia di comuni che si trovano nella stessa condizione. Ti ringrazio per questa, per i tuoi interventi di oggi a CRM. Ringrazio Franco Vasta, al quale avrei tante altre cose da chiedere, ma all'ultimo qualcosa pure dovrà chiedertela. E per quanto riguarda il Campo Felice, era conosciutissima per gli spettacoli, ora si è un po' diminuiti questi spettacoli, e a me fanno piacere, a me fa piacere, perché è meglio investire in servizi che negli spettacoli, poi quando non ci sono. No, volevo soltanto chiederti una cosa, la Torre Roccella, tempi tecnici per renderla fruibile ce ne sono, ecco Franco? I lavori sulla torre, per quanto riguarda il problema degli spettacoli, devo dirti che anche in passato le fonti di finanziamento non erano quelle comunali, o meglio, comunale, il comune ha sempre speso diciamo non eccessivamente rispetto agli spettacoli. Certo, abbiamo avuto dei finanziamenti importanti alla Regione Siciliana nel corso degli anni. Questi finanziamenti ultimamente si sono fatti sempre più ridotti. Sulla Torre Roccella i lavori li abbiamo conclusi, stanno procedendo al collaudo primo amministrativo e poi quello tecnico, e ci sarà la consegna del bene al comune, dopodiché dopo la consegna del bene al comune faremo in modo di renderlo fruibile a tutti. Ecco. Io voglio chiudere il mio intervento, anche perché non voglio entrare assolutamente nell'agone politico cefaludese, anche se mi interessa, voglio dire, rispetto al fatto che avremo un nuovo interlocutore o avremo l'interlocutore che già occupa la poltrona di primo cittadino a Campo Felice. A Cefalù, scusate, qualunque sia il risultato delle elezioni, qualunque sia la libera scelta e la libera determinazione del popolo cefaludese, noi a Campo Felice abbiamo l'interesse sempre ad interloquire positivamente con le istituzioni di Cefalù, perché l'ho detto e lo ripeterò sempre: Cefalù per noi è un punto di riferimento, abbiamo sempre considerato un modello da imitare Cefalù sotto il profilo turistico, sotto il profilo della ricettività, per cui le nuove elezioni possano dare, e sono d'accordo con Patanella, un cefaludese che amministri la città di Cefalù, sia Guercio sia un'altra persona, no, ha poca importanza, è importante sia una intelligenza fra le tantissime intelligenze di Cefalù che storicamente hanno fatto scuola in tutte le Madonie, che possa amministrare per bene questo grande popolo in modo da condurlo sempre più a traguardi più ambiziosi. Perfettamente d'accordo. Grazie Franco Vasta, ma credo che abbiamo in linea, ecco, prima di chiudere questa trasmissione, abbiamo in linea il consigliere provinciale Gaetano Lapunzina. Ecco, ciao Gaetano. Buongiorno, saluto i radioascoltatori, saluto il sindaco Vasta, l'assessore Patanella, e prendo spunto per un breve intervento inizialmente dalle parole del sindaco. Certamente è interesse di tutto il comprensorio che Cefalù svolga un ruolo attivo e presente, perché ormai oggi più che mai le problematiche sono comprensoriali, dobbiamo difendere, dobbiamo salvaguardare questo comprensorio da tutto lo svuotamento che sta avvenendo in questo periodo, certamente di crisi, lo svuotamento della sanità, quello di uffici pubblici. Dobbiamo chiedere che quando si parla di comprensori, di liberi consorzi di comuni, di nuove organizzazioni sul territorio, questo territorio, il territorio delle Madonie, abbia una sua dignità e possa essere rappresentato al meglio, e in questo Cefalù certamente può svolgere un ruolo primario. Io non voglio polemizzare oltremodo, ma alcune parole dell'assessore Patanella secondo me vanno riprese. Io ringrazio l'assessore per l'attenzione che mostra all'ambito del centro-sinistra, laddove ci consiglia le primarie. Io credo che, siccome anche il leader, il segretario del PDL Alfano, ha detto che il centrodestra ha come sistema di riferimento quello della consultazione alla base, io gli ricambio l'invito appunto a svolgere queste consultazioni anche nell'ambito di quella che egli dice che è la sua coalizione, per cui perché non iniziare piuttosto che fare inviti ad altri da proprio campo, fermo restando che noi come Partito Democratico abbiamo lanciato a suo tempo la prospettiva delle primarie, l'abbiamo fatto nel mese di agosto dell'anno scorso, invitando i partiti della coalizione a questo diciamo sistema per la scelta del candidato. Dopodiché, considerato che nell'epoca in cui noi abbiamo fatto la proposta non ci sono stati spunti in tal senso, noi abbiamo lanciato una nostra candidatura. Questo per quanto riguarda le primarie, candidatura che ritengo legittima per quella che è la storia di Cefalù, la storia politica di Cefalù. Dopodiché però voglio dire, sempre ricollegandomi alla storia di Cefalù, che forse l'assessore, che certamente ha a cuore la città, ma che, come lui ha detto, non è proprio, diciamo, cittadino a pieno titolo di Cefalù perché è di Palermo, forse ha poco presente gli avvenimenti storici, e quando dice che il sindaco Guercio avrebbe potuto, insediatosi al comune, dichiarare il dissesto, forse dimentica che il sindaco Guercio è stato amministratore di questa città. Sotto l'amministrazione Vicari, il sindaco Guercio è stato assessore, quindi tutta questa, diciamo, estraneità agli eventi amministrativi e contabili della città il sindaco Guercio non ce l'ha, e la ulteriore responsabilità che ha il sindaco Guercio è che, mentre in campagna elettorale ha dichiarato che avrebbe immediatamente diciamo eletto, fatto chiarezza sui conti del comune, questa chiarezza non è stata fatta. Concludo dicendo, assessore, il dissesto non è una cosa che si può dichiarare o non dichiarare a piacimento. Il dissesto c'è o non c'è, laddove c'è va dichiarato, laddove non c'è non va dichiarato. Non è una liberalità che l'amministratore ha di dichiarare o non dichiarare il dissesto. Per legge il dissesto si dichiara se c'è o non si dichiara se non c'è, per cui non si può scegliere. Io mi auguro che il dissesto, Cefalù, non ci sia e che quindi non si sia costretti a dichiararlo. Certo, la situazione di Cefalù è una situazione molto particolare, perché si è, credo, amministrato senza tener conto, senza tenere in debito conto quella è la situazione finanziaria del comune. Grazie, ecco, buona domenica a tutti. Ecco, grazie Gaetano. Credo che l'avvocato Patanella voglia aggiungere soltanto qualcosa. Una brevissima risposta sulle primarie. È un metodo democratico che io invidio al centro-sinistra, e per cui la mia considerazione era squisitamente politica rispetto a una candidatura di Mauro Caliò che invitava alle primarie, nonostante riconosco l'autorevolezza della candidatura nell'ambito del Partito Democratico di La Punzina, e so e sono certo che non teme minimamente di confrontarsi in una competizione come quella delle primarie, mi chiedevo come mai uno strumento che può portare, per esempio, per ricollegarmi al ragionamento sull'Agorà o su tutto il fermento che c'è in questo momento nel mondo giovanile, al coinvolgimento della città. Per quanto riguarda il centrodestra, ad oggi c'è un solo candidato, che è Pippo Guercio, il sindaco uscente. Laddove altri partiti riterranno di proporre le proprie candidature, così come dicevo prima, è un metodo che invidio, potrebbe diventare un metodo da seguire. Scusami, ma credo che Francesco Calabrese ruoti nell'ambito del centrodestra pure, credo. Guarda, io non so Francesco Calabrese, ripeto, non so se è ancora una candidatura che è sul tavolo. La Punzina ha aperto una sede elettorale e il sindaco Guercio lo ha fatto pubblicamente. Certo, sono i due sicuri, sono i due candidati. E se e quando Calabrese sarà il candidato designato da un'area di centrodestra e riterranno di competere in una elezione per le primarie, quella sarà una valutazione che certamente i partiti dovranno prendere in considerazione, perché sono strumenti democratici che non devono preoccupare nessuno. Quanto al dissesto, quanto al dissesto è chiaro che c'è o non c'è. Però bisogna guardare le relazioni tecniche. Il ragioniere generale del comune, che è l'organo deputato a valutare la ricorrenza dei requisiti per il dissesto, ha fatto una relazione ampia di circa 6 o 7 pagine, dove ha pedissequamente, mi si faccia passare il termine squisitamente giuridico, motivato perché non vi sono le ragioni del dissesto. Proprio per questo ho fatto un appello a tutte le forze che devono valutare poi nei fatti e se la relazione sia compiuta come noi riteniamo che sia, e quindi quali possono essere gli elementi eventualmente da correggere per rilanciare la città, a fare di questa mano un unico pugno per risolvere il problema. Sono convinto che chi si candida, in questo caso il capogruppo del PD, ha ben presente questa realtà e che non potrà spendersi per primo lui per evitare che i cittadini si trovino con le tasse aumentate, con l'impossibilità di dare risposte. Sarà il primo ad avere a cuore l'interesse di questa città e a spendersi laddove possibile per tutti quanti, evitare il dissesto. Ringrazio i radioascoltatori, ti ringrazio Mario per averci dato questa opportunità. Grazie Vito Patanella. Se Gaetano non ha nulla da aggiungere, io chiuderei questa trasmissione. Da Fabio e da Angelo Arduino e da Mario Lombardo, una felice giornata ai nostri radioascoltatori, ai quali ricordo che la trasmissione viene replicata lunedì alle ore 13:15. Abbiamo trasmesso qua e là tra una novità e l'altra.